Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nessun segno al momento, almeno nessuna notizia di abusi sessuali. Gli inquirenti si appellano ai cittadini. Se avete visto qualcosa, chiamate la polizia. Rafforzare il piano di investimenti di Juncker, dice Renzi. Intanto, dopo l'apertura del Premier all'intervento dello Stato nell'Ilva, attesa per il prossimo Consiglio dei Ministri. Vaccini, parla il ministro Lorenzin. Nessuna evidenza scientifica di una correlazione con le morti. Tra poco in diretta sentiremo i responsabili dell'Istituto Superiore di Sanità. Cambia il vertice nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore. La prima città è Ravenna, che sorpassa Trento. Milano è ottava, Roma dodicesima. Calcio, Juve, Roma sempre là, in testa a 3 punti di distanza. Genoa sorprendentemente terzo, ma stasera la Samp e il Napoli potrebbero raggiungerlo. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, come sempre, effettogiorno@radio24.it, alla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, il numero di SMS per scriverci in diretta, se volete, il 349-238-6666. Oggi, tra l'altro, 1° dicembre, c'è una scadenza, se vogliamo una ricorrenza. Un anno fa, lo ricorderete, e questo sarà un altro degli argomenti di questa trasmissione, un anno fa ci fu il rogo nel capannone di Prato, nel quale morirono, come ricorderete, 7 lavoratori cinesi. Vedremo di fare il punto e di capire a che punto siamo, anche dal lato dei controlli. Iniziamo però dalla cronaca che arriva dalla Sicilia e dalla vicenda del bambino che è stato trovato morto. C'è stata poco fa una conferenza stampa degli inquirenti. Ci colleghiamo dunque con Nino Amadore del Sole 24 Ore in Sicilia. Nino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, in conferenza stampa gli inquirenti hanno spiegato, sono scesi nei dettagli e hanno detto che il bambino è stato strangolato e poi lanciato da un'altezza di 2 o 3 metri. Hanno anche diffuso in parte i risultati dell'autopsia sul corpo di Loris e i risultati degli accertamenti dai quali si conferma questa notizia. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo di Ragusa, Carmelo Petralia, e dal sostituto Marco Rota. Il procuratore Petralia, che in mattinata ha presieduto un vertice degli investigatori, ha confermato che per il momento non vi sono indagati e che è stato aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e omicidio. A proposito dell'ipotesi di violenza sessuale, stamattina sono circolate notizie che il bambino sarebbe stato violentato. Il procuratore è stato chiaro, ma sentiamo le sue parole. In questo momento non ci sono elementi per confermare l'esistenza di esiti di violenza sessuale. Il procuratore ha anche spiegato che in questo momento si indaga a 360 gradi, come si suol dire, ma che vi sono comunque delle piste privilegiate. A proposito delle indagini, ha fatto un appello alla cittadinanza. Sentiamo anche questo suo intervento. Determinati movimenti, determinati fatti non possono essere sfuggiti all'osservazione di chi in quella drammatica mattina di sabato scorso si trovava in giro per la strada, non solo. E questo riguarda anche vicende, sono assolutamente sintetico, precedenti. E grazie a Nino Amadore per questi aggiornamenti. Stiamo tra l'altro cercando di metterci in contatto col procuratore, vedremo se ci riusciremo nel corso della trasmissione. Restiamo sulla cronaca ora con una serie di arresti per il sequestro di un imprenditore. Tra le persone finite in manette c'è l'ex moglie del calciatore Daniele De Rossi. Sequestrato e torturato per ore con un coltello per convincerlo a pagare 200.000 euro ad alcuni usurai dai quali aveva ottenuto un prestito. È una vicenda da arancia meccanica quella denunciata ai carabinieri da un imprenditore imprenditore romano titolare di una società che opera nel settore fotovoltaico. Dopo una lunga indagine che ha permesso di verificare il racconto dell'uomo, i militari nella notte hanno arrestato 8 persone. Fra di loro c'è anche Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore della Roma Daniele De Rossi. Proprio nel suo appartamento all'Eur la vittima sarebbe stata seviziata dai sequestratori. Finita ai domiciliari, in passato la donna era stata coinvolta anche in altre vicende di cronaca e nel 2008 il padre era stato ucciso a colpi di fucile. Assieme ad altre 2 persone, Tamara Pisnoli sarebbe una delle mandanti dell'aggressione. In manette sono finiti anche i 5 picchiatori, tutti di nazionalità italiana, assoldati per il sequestro ed il pestaggio dell'imprenditore. I reati contestati a vario titolo sono quelli di estorsione aggravata, lesioni personali, rapina e usura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla politica economica. Il Presidente del Consiglio Renzi questa mattina è intervenuto in aula alla Camera sul semestre europeo a presidenza italiana. È tornato a parlare anche del piano Juncker, ma l'attenzione in queste ore è concentrata anche su un'altra vicenda sulla quale il Governo ha detto che interverrà, ed è la vicenda Ilva. Facciamo un punto su tutto questo col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Intervento all'ora del Presidente del Consiglio in Parlamento per un incontro sul semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Occasione dunque questa per il Premier per una riflessione soprattutto sulla politica economica del vecchio continente. Da qui l'avvertimento di Renzi: o l'Unione cambia verso oppure rischia di diventare la cenerentola dei paesi globali. Il mondo corre e l'Europa è in una fase di sostanziale stagnazione, a crescita quasi bloccata. Questo, ha spiegato il Presidente del Consiglio, non vuol dire venire meno al patto di stabilità. Ma sentiamo Renzi. Vogliamo un'Europa che sia fedele al patto di stabilità, ma che si ricordi che quel patto non si chiama soltanto patto di stabilità, si chiama patto di stabilità e di crescita. Il piano Juncker va nella giusta direzione, anche se a nostro giudizio dovrà essere rafforzato e incoraggiato. Mi pare che ci sia ancora un po' di timidezza. E sin qui l'Europa. Simone, quanto alla politica economica interna, approvata la legge di stabilità alla Camera, si guarda al prossimo passaggio al Senato della manovra, ma anche del Jobs Act. Questa sera intanto dal Consiglio dei Ministri potrebbe arrivare una prima decisione del Governo sul futuro dell'Ilva. La linea sul colosso dell'acciaio l'ha tracciata proprio il Presidente del Consiglio Renzi. Possibile intervento pubblico, risanamento, tutela dei posti di lavoro e dell'ambiente, poi nuova collocazione sul mercato. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Anche di Ilva torneremo a parlare in corso di trasmissione, sentiremo uno dei sindacalisti di Taranto per capire come vedono questo possibile intervento del governo e quali prospettive si aprono a questo punto. A proposito di politiche economiche e di dati, l'Istat conferma il calo del PIL nel terzo trimestre e lo conferma peggiore delle attese. Arrivano invece novità lievemente positive per le spese delle famiglie e i mutui. Resta complicata la situazione dell'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno, ma ci sono i primi segnali positivi per le spese delle famiglie e sul credito anche alle imprese. L'Istat infatti ha confermato la sua previsione del 14 novembre scorso, una contrazione del PIL dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% su base annua. Peggiore invece la variazione acquisita, passata dal -0,3% a -0,4%, e cioè il dato che si avrebbe a fine anno in assenza di movimenti nell'ultimo trimestre, dato in linea con le stime dell'esecutivo che per gli ultimi 3 mesi dell'anno prevedono una stagnazione dell'economia e una caduta dello 0,4%. Tutti i comparti dell'economia italiana hanno mancato l'obiettivo della crescita, secondo l'Istituto di Statistica. Male industrie e costruzioni, fermi i servizi. Ma, e qui si intravedono alcune luci rispetto al trimestre precedente, la spesa delle famiglie sul territorio nazionale ha registrato un aumento dello 0,1%, in particolare per gli acquisti di beni durevoli e di beni semidurevoli come gli elettrodomestici. E in più anche l'Associazione Bancaria Italiana registra miglioramenti sul fronte del mercato del credito italiano. Secondo l'ABI, infatti, nei primi 10 mesi di quest'anno sono stati erogati più mutui che nell'intero 2013. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo dal lato dell'economia e della politica economica. Intanto le tensioni politiche si riaccendono intorno alla vicenda del Quirinale e a quella delle riforme. Potrebbe formarsi un asse Partito Democratico-Movimento 5 5 Stelle, mentre Berlusconi dà chiari segnali di volersi sganciare. La popolarità del Premier è in calo. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto iniziamo dalla direzione nazionale del PD, che dovrà parlare qui oggi pomeriggio di astensionismo, di emergenza sociale e anche di riforme istituzionali. Il Premier Matteo Renzi avverte Silvio Berlusconi, ma anche la minoranza del partito, e lui a dare le carte, magari, come hai detto tu, Simone, con un'apertura ai 5 Stelle. Non c'è spazio quindi per Renzi ad una sinistra alternativa e il PD, qualsiasi frattura nel partito potrebbe essere fatale con l'elezione del capo dello Stato alle porte, le riforme costituzionali, la legge elettorale. Sull'Italicum la minoranza chiede sempre il ripristino delle preferenze, ma c'è anche il fatto che dall'altra parte la destra xenofoba della Lega, dice Renzi, sta salendo insieme con Marine Le Pen, e quindi si guardano anche alle primarie in Veneto. Ricordiamo che in Veneto e in Puglia alle primarie hanno vinto Moretti ed Emiliano, e per Alessandra Moretti si prepara la sfida a Luca Zaia, attuale governatore leghista. Oltre 100.000 invece i dati per Michele Emiliano in Puglia. Sul Quirinale Forza Italia chiede un presidente che non sia di una parte politica, mentre sulla famosa alleanza tra PD e 5 Stelle per le riforme istituzionali bisognerà attendere la situazione proprio all'interno del movimento, che è ancora nebulosa. Dopo il direttorio dei 5 si parla di nuove 20 espulsioni. A te, Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. La vicenda delle morti di alcuni anziani dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Interviene il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sentiamo le sue parole. Il caso che si sta verificando in Italia in questi giorni è tutto da accertare. Noi abbiamo avuto un'azione di precauzione voluta dalla nostra agenzia regolatoria dopo alcune segnalazioni sospette della farmacovigilanza, però a oggi non abbiamo ancora nessuna evidenza scientifica. Ricordiamoci che soltanto lo scorso anno sono morte 8.000 persone solo in Italia a causa dell'influenza. Quindi nelle conclusioni sulle vaccinazioni oggi è una giornata molto importante, perché tutta l'Europa riconosce l'importanza fondamentale delle vaccinazioni come sistema primario di igiene e di sanità pubblica, e noi non possiamo abbassare la guardia soprattutto su alcuni aspetti. Immaginiamo le vaccinazioni per i bambini, ci sono delle campagne non scientifiche portate avanti su internet e sui social media che mettono a repentaglio la salute di milioni di bambini. Noi stiamo aspettando adesso il riscontro dell'Istituto Superiore di Sanità sulla prima lotto di esami dal punto di vista chimico, dopodiché la cultura invece per altri tipi di esami riguarderà, insomma ci vorranno dei giorni. Però proprio in questi giorni avremo anche l'esame autoptico, cioè quindi i risultati dalle autopsie, e al momento noi non abbiamo alcuna evidenza di correlazioni. Parliamo però di un'emergenza sanitaria vera, o quantomeno decisamente più consistente, perché oggi è la giornata mondiale dell'AIDS. Da quando fu scoperta nell'81, la sindrome da immunodeficienza acquisita ha ucciso 40 milioni di persone. Resta la più grande emergenza sanitaria di questi ultimi 30 anni. I leader mondiali si sono impegnati a debellare l'AIDS entro il 2030. È questo l'obiettivo che emerge nella giornata mondiale contro l'AIDS, come conferma il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Secondo recenti dati resi noti dal programma delle Nazioni Unite sull'AIDS, nel 2013 hanno perso la vita a causa del virus 1,5 milioni di persone, e oltre 2 milioni invece sono state contagiate, il 70% delle quali nei paesi in via di sviluppo. Serve dunque uno sforzo della comunità mondiale per chiudere il gap tra paesi ricchi e quelli a basso reddito. E anche se è in Africa che si registrano il maggior numero di casi, dove è migliorato l'accesso agli antiretrovirali e calato il numero di infezioni. In Asia centrale e nell'Europa dell'Est, dove invece c'è un minor accesso ai trattamenti rispetto all'Africa, i casi sono addirittura triplicati. In Italia le nuove diagnosi di HIV nel 2013 sono state oltre 3.600. Complessivamente sono circa 140.000 gli italiani sieropositivi. Circa l'80% dei contagi è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, ma soltanto il 35% dei giovani in Italia usa il profilattico e appena il 29% dichiara di aver fatto il test dell'HIV. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Svizzera perché è arrivato un risultato inatteso per un referendum che doveva frenare l'immigrazione nel paese. febbraio avevano votato sì a un maggior controllo sul numero di immigrati che vivono e lavorano nel loro paese, provocando il disappunto della Commissione europea e il timore di migliaia di pendolari. In attesa di capire quali saranno le ripercussioni di tale decisione, ieri gli svizzeri hanno detto no alle misure considerate eccessive e dannose per l'economia promosse dal gruppo ambientalista Ecopop. Quest'ultimo chiedeva non più dello 0,2% di nuovi immigrati l'anno, pare a un saldo migratorio di circa 17.000 rispetto all'attuale 80.000. Con il 74% dei voti contrari, gli elvetici hanno così deciso di bocciare il referendum stop alla sovrappopolazione, facendo passare la linea sostenuta dal governo. No anche all'abolizione dei forfè fiscali per i ricchi contribuenti, bocciata l'iniziativa Salvate l'oro della Svizzera, attraverso cui la banca centrale elvetica avrebbe dovuto conservare tutte le riserve aurifere nel paese, mentre ora il 30% è depositato all'estero. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio, giornata calcistica, ci racconta di una corsa a due che prosegue, di una Juve che si prende il derby, di una Roma che batte l'Inter 4-2 e di una genovese, che però non è la Sampdoria, che è quasi sorprendentemente al terzo posto. Carlo Genta, eccoci. Anche senza il quasi, ciao Simone. Genoa al terzo posto, tra l'altro ieri ha giocato una partita splendida a Cesena, distruggendo gli avversari. Cesena in difficoltà, ma distruggendo gli avversari già dal primo tempo, ma c'è stato quasi tutto il meglio del repertorio del calcio italiano in questo weekend, con la Juventus che non ha brillato e si è presa il derby all'ultimo istante possibile con la magia di Pirlo, quindi tutta l'imprevedibilità di questo gioco. C'è stata la Roma ieri sera, che in una bellissima partita ha vinto il posticipo contro una delle migliori versioni stagionali dell'Inter, la terza uscita con Mancini, certamente la migliore delle tre gare giocate fin qui con il nuovo allenatore. Un Inter che chiede ancora credito nonostante la classifica stia piangendo a dirotto, perché oggi troviamo l'Inter come prima ma nella metà destra della classifica, e quindi è undicesima, e quindi a questo punto servono risultati. Poi abbiamo visto ho sentito gli echi delle polemiche arbitrali di Milano, con l'arbitraggio di Valeri che ha fatto infuriare l'Udinese, che ha aperto la strada alla vittoria di un buon Milan peraltro, e appunto una genovese al terzo posto. Ma aspettiamo, perché questa sera c'è un'altra partita di estremo interesse, che è Sampdoria-Napoli, che chiuderà il programma, e tra l'altro quindi con la Sampdoria che potrebbe affiancare, se non superare addirittura la cugina, per così dire, anche se... Beh, affiancare no, perché Sampdoria ha 21 punti, il Genoa ne ha 23, quindi se vince lo supera, o la supera o niente. Grazie a Carlo Genta, che ritroviamo naturalmente in tutti i convocati a partire dalle 14. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il bambino ucciso nel Ragusano, nessun segno di abusi sessuali a quanto risulta al momento. Gli inquirenti si appellano ai cittadini: se avete visto qualcosa, chiamate la polizia. Bisogna rafforzare il piano di investimenti di Juncker, dice Renzi. Intanto, dopo l'apertura del Premier all'intervento dello Stato nell'Ilva, attesa questa sera per il Consiglio dei Ministri. Vaccini, parla il ministro Lorenzin, nessuna evidenza scientifica di una correlazione con le morti. Cambia il vertice nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, la prima città è Ravenna, sentiremo il sindaco tra un attimo, che sorpassa Trento, Milano ottava e Roma dodicesimo. Gianni Rezza, capo del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo sentito le dichiarazioni di oggi del ministro Lorenzin a proposito della vicenda dei vaccini. Al momento, dice, non c'è nessuna evidenza scientifica, questo vuol dire che in sostanza non c'è alcuna prova, e naturalmente le analisi sono in corso, di correlazione tra le morti che ci sono state in questi giorni e che sono state denunciate in alcuni casi, ed è anche colpa di noi giornalisti, come sospette, perché le abbiamo date quasi automaticamente in questo modo per correlate agli stessi vaccini. Non c'è nessuna evidenza scientifica, ci conferma che le indagini richiederanno ancora qualche tempo, Rezza? Ma sì, io credo fra oggi e domani arriveranno i risultati delle prime indagini del nostro istituto, soprattutto quelle tossicologiche, dopodiché per quelle microbiologiche bisognerà aspettare un po', però bisogna ribadire il concetto che applicare il principio di precauzione non significa evidenziare un nesso causale, cioè un nesso fra la vaccinazione e il decesso. Tutt'altro, significa semplicemente che a seguito di alcuni campanelli di allarme si vuole mettere in tutta sicurezza i cittadini che si vanno a vaccinare, e quindi si emana un provvedimento cautelativo a tempo prima di sciogliere, come dire, la prognosi, tra virgolette. Senta, dalle prime indicazioni che avete, naturalmente le ripetiamo, quello che state studiando in queste ore, avremo i primi risultati tra oggi e domani, come ci diceva, tra domani e dopodomani, oggi, domani, insomma, quando è? Dalla prima idea che vi siete fatti, c'è qualche correlazione tra le morti e i vaccini oppure no? Guardi, non ci sono ancora i risultati, diciamo, delle analisi, i risultati di laboratorio. Certo, è molto improbabile che un vaccino che viene somministrato a persone anziane, molto anziane spesso, da molti anni, perché non è cambiata assolutamente la composizione di questo vaccino, è un vaccino ampiamente testato, dia dei problemi, a meno che non ci siano delle contaminazioni particolari, per esempio in un paio di lotti, però anche questo non sembra, come dire, a una prima analisi anche delle cause dei decessi, che sembrano le più varie, per ora, come dire, facilmente ipotizzabile. Io non posso che dire che rimango della mia opinione, cioè che questo provvedimento cautelativo, si fa bene a fare questo genere di provvedimenti, proprio perché vogliamo essere sicuri, bisogna essere sicuri che un vaccino, quando venga somministrato, sia del tutto sicuro. Però un provvedimento cautelativo, non c'è evidenza scientifica al momento di una connessione, di un'associazione, di una correlazione fra la vaccinazione e queste morti sospette. Senta Rezza, in parte i numeri li abbiamo sentiti poco fa dal ministro Lorenzin. Quante vittime ci sono ogni anno per l'influenza? Perché poi anche questo è l'altro aspetto della questione, no? Ci sono due aspetti da considerare. Uno, che purtroppo a una certa età si muore di cause anche diverse dalla vaccinazione. Quindi, come muoiono i non vaccinati, muoiono anche i vaccinati. Quindi trovare un'associazione tra la vaccinazione e la mortalità, come dire, richiede esami molto approfonditi. Due, muoiono ogni anno circa 8.000 persone per complicanze dell'influenza. Quindi non vaccinare vuol dire far andare incontro a una mortalità per complicanze più elevata le persone che appunto sono a rischio di complicanze. Quindi non è che si vaccinano le persone perché in base a logiche irrazionali. Se si propone il vaccino, se la sanità pubblica fa uno sforzo per proporre il vaccino alle persone a rischio, è perché si vuole diminuire evidentemente la mortalità, ma anche diminuire le ospedalizzazioni, diminuire tutte quelle cause che portano le persone, come i diabetici, come le persone affette da malattie cardiorespiratorie croniche, come i bambini prematuri fra i 6 mesi e 2 anni di età, a rischiare proprio una brutta influenza e le sue complicanze. Grazie a Gianni Rezza, capo del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. E saluto invece Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna, che oggi ha di che festeggiare. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Secondo la classifica annuale della qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, che trovate sul Sole 24 Ore in edicola, perché io non vi posso leggere tutte le città italiane, ve ne posso dare qualcuno. Vi posso dire che Ravenna scavalca Trento ed è la prima quest'anno per qualità della vita, e Trento è seconda, dunque seguita da Modena, Belluno, Reggio Emilia, Aosta, le grandi città. Roma è dodicesima, Milano è ottava. In fondo alla classifica trovate Agrigento, che tra l'altro è commissariata, Reggio Calabria, Foggia, Caserta, Taranto, Caltanissetta, Enna, Lecce, Catania, Cosenza, Vibo Valentia e al 96esimo posto Napoli, quasi tutte città del sud, a testimonianza ancora una volta di una divergenza tra il sud e il nord anche su questo fronte. Allora, sindaco Matteucci, naturalmente per lei oggi è il giorno della celebrazione di questa cosa, immagino. Guardi, sì, che dura un attimo, nel senso che spero che sia soprattutto un'iniezione di fiducia per la comunità ravennate, per la città di Ravenna e per tutti i comuni della provincia. Un attimo dopo dico che però non facciamo nessun trionfalismo e questo per noi è solo uno stimolo a provare di fare sempre meglio. Ecco, questa è la cosa importante a mio parere. Come si ottiene un risultato di questo genere? Perché in realtà Ravenna, a guardare il Sole 24 Ore di oggi, come dire, è là a ridosso di queste classifiche, insomma, da parecchio tempo, no? Certo, insomma, sì, sostanzialmente. Certo. Da cosa dipende? Quindi, come dire, non è che stiamo celebrando la sua amministrazione, evidentemente, no? Certo, no? Assolutamente, evidentemente c'è un sistema che funziona. Assolutamente, no? Infatti, quando prima dicevo che non c'è vantare vanagloria, lo dico soprattutto per me, nel senso che si raggiungono questi traguardi grazie ai cittadini, grazie alle imprese, grazie alle famiglie. Credo che una cosa importante in questi anni, anche in questi anni di crisi, perché vorrei dedicare questo bel risultato soprattutto alle persone che soffrono a causa della crisi e ai tanti ravennati che hanno delle buone idee su come uscire dalla crisi. Credo che si ottengano anche con lo spirito di comunità, e cioè con il fatto che cittadini, lavoratori, imprese, istituzioni provano di lavorare insieme, ognuno con le proprie idee, ognuno col proprio ruolo, con la propria autonomia, ma provano insomma ad andare tutti nella direzione giusta, quella della difesa dei servizi sociali, del contrasto alla crisi economica e di un'attenzione quotidiana che è fatta di tante piccole scelte. Sindaco, qua ci scrivono anche i suoi cittadini, Sì. La accusano di far morire Marina di Ravenna. No, sì, no, so di che cosa parlano. Marina di Ravenna è una bellissima località turistica, è uno dei nostri bellissimi lidi. In questi anni noi abbiamo avuto una grande esplosione positiva del turismo giovanile e della presenza di giovani con le feste in spiaggia, abbiamo messo solo qualche regola per fare in modo che le feste in spiaggia, come è successo quest'estate, si svolgano nella sicurezza dei giovani che le frequentano. E forse qualcuno le considera un po' troppo rigide queste regole. Sì, c'è chi considera queste regole troppo rigide, per quello mi accusano di una cosa un po' forte, che io non voglio, cerco di fare vivere le nostre località e sulla base, diciamo, del buon senso ho semplicemente introdotto qualche regola di buon comportamento. Grazie Sindaco Matteucci, in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il bambino ucciso nel Ragusano, gli inquirenti si appellano ai cittadini, se avete visto qualcosa chiamate la polizia. Vaccini, parla il ministro Lorenzin, nessuna evidenza scientifica di una correlazione con le morti. Rafforzare il piano di investimenti di Juncker, dice Renzi, questa sera forse consiglio dei ministri sull'Ilva. Cambia il vertice nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, la prima città è Ravenna che scavalca Trento. La borsa. Borse in diretta. Non vanno bene le cose oggi, meno 1,6% in questo momento il FTSE MIB, tra l'altro in peggioramento, meno 1,5% per il FTSE All Share, negativo anche il resto d'Europa ma non così male, Francoforte meno 0,43%, Parigi meno 0,41%, Londra meno 0,83%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Come mai Milano va così male? Ma a Milano sono particolarmente giù ancora una volta i titoli delle banche, soprattutto quelli delle popolari che pesano molto sull'indice per principale, la Popolare Emilia Romagna cede un 4,9%, così a Piazza Affari abbiamo flessioni più vistose che negli altri listini europei. A pesare sul clima generale sono i dati macroeconomici, in particolare quelli sul settore manifatturiero europeo rivelati dall'indice Markit, che segnalano una situazione di stagnazione a novembre con l'industria tedesca che ha toccato i minimi degli ultimi 17 mesi. Pesa anche il petrolio, che è sempre in ribasso e pesa sui titoli petroliferi. Eni cede un altro 2,2%. Fra i pochi titoli positivi invece Luxottica più 0,8% grazie alla promozione sancita dagli analisti di Barclays, e bene anche FCA che fa più 1,2% in attesa dei dati sulle matricolazioni italiane di automobili che verranno diffusi nel pomeriggio. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore e a Isabella Tasso. Ciao Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. In totale siamo a 7 persone. poi abbiamo 4 persone ferite che questa mattina sono state tratte in salvo dai vigilifuoco e portate all'ospedale. Ho cercato di fare di mio meglio, ho un rammarico soltanto, non ho potuto fare di più. Questo mi dispiace, perché sentire queste urla... Ce l'abbiamo un po' sulla coscienza tutti, e che bisogna cominciare a vedere questa realtà per quello che è. Noi siamo in presenza della più grande concentrazione di lavoro sommerso che esiste nel centro-nord del paese, probabilmente dell'Europa. E avrete capito di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un anniversario, un anno fa la tragedia di Prato, come ricorderete, andò in fiamme un capannone nel quale c'erano molti lavoratori cinesi, veniva utilizzato anche come dormitorio e morirono 7 persone, come appunto ricorderete, come ci raccontava quella voce raccolta da quel giorno. Saluto Matteo Biffoni, che è sindaco di Prato e torna ospite ai nostri microfoni. Biffoni, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Vorrei capire questo: oggi sarà una giornata di ricordo naturalmente, e non solo, anche di racconto su quello che si è cercato di fare a partire da quello che è successo un anno fa, a partire da quello che diceva il presidente della regione, che era l'ultima voce che abbiamo sentito, quella di Rossi, che diceva siamo di fronte forse alla più grande concentrazione di lavoro nero d'Europa. Ha dei numeri su quello che si è fatto fino ad oggi? Sì, noi abbiamo fatto molto, nel senso che io mi sono insediato a giugno sostanzialmente, perché abbiamo trovato la situazione che avete raccontato. Ci siamo resi conto, io per primo, che non era sostenibile, erano percorsi che non potevano più essere battuti proprio per la nostra, per il rispetto della nostra storia, per quello che è questa città, quello che ha dato all'economia di questa città. E insieme alla Regione Toscana abbiamo deciso di percorrere 2 tipi di percorsi. Il primo è intensificare la repressione, i controlli. Ho avuto anche qualche critica da parte dei miei, ma non era sostenibile fare diversamente. E critica di che tipo, Biffo? Niente, perché diciamo i controlli sono controlli. Noi entriamo nelle aziende cinesi e controlliamo che sia tutto a posto. Se non è tutto a posto, chiudiamo. Questo è sostanzialmente il nostro percorso. Noi siamo arrivati diciamo, a dei numeri importantissimi: 70 aziende contratte a settembre, 82 ad ottobre, e di queste ne abbiamo chiuse complessivamente una cinquantina, nel senso abbiamo poi le prescrizioni che noi facciamo, quindi le sanzioni con richiesta di ripristino delle condizioni. Insomma, nel senso abbiamo fatto quindi una cinquantina di aziende chiuse, diciamo, tra agosto e ottobre, sostanzialmente. Settembre-ottobre sono complessivamente, in 2 mesi ne abbiamo chiuse prescrizione 30, poi ti faccio i conti, 33 sì, aziende chiuse. Poi ne abbiamo anche dei numeri importanti, abbiamo una novantina, quasi un centinaio di prescrizioni, quindi c'è tutta una serie di lavori da compiere per mettere in sicurezza l'ufficio che viene controllato, capito? Questo è poi l'altro tipo di... è solamente 2 mesi, poi in più abbiamo il servizio interforze che continua a lavorare, e lì andandosi esposti colpisce quasi a botta sicura quando va a chiude. Biffoni, certo che per quanto lavoro facciate voi e possiate fare voi, per quanto lavoro possa fare l'Interforze, da una situazione come quella raccontata dallo stesso Rossi, che usò all'epoca un'immagine molto, molto efficace, no? Questa della più grossa centrale di lavoro nero d'Europa, sia vera oppure no, cioè sia confermata ai numeri oppure no, forse per concentrazione, anche per dimensione del territorio di Prato, probabilmente è vero, non se ne esce così rapidamente. Rapidamente non se ne esce, però le devo dire c'è un'altra grande novità a mio modo di vedere rispetto alle idee che c'erano precedentemente, perché qui c'è una città che si è schierata, sono stati coinvolti ovviamente la prefettura, le forze dell'ordine, sono coinvolte le associazioni di categoria, sono coinvolti i sindacati, sono coinvolti gli ordini professionali in un lavoro complessivo che serve a cercare di ridare una cornice di legalità a questo tipo di situazione, perché quello che, su cui noi stiamo provando a fare leva è proprio una collaborazione tra tutto lo Stato, quindi compreso in tutte le sue evidenziazioni, proprio per aggredire il problema sotto più punti di vista, che sono certamente quelli della repressione e del controllo, su cui chi viola le regole non può stare, non è amico di Prato e quindi bisogna chiudere, ma nello stesso tempo chi invece vuole giocare secondo un perimetro di regole date, quelle che sono e ci piacciono o no, ma che sono quelle che vanno rispettate, beh, noi lo consideriamo nostro amico e quindi noi ci mettiamo a disposizione di questo tipo di percorso. C'è un'ultima questione sulla quale la voglio sollecitare, che naturalmente è piuttosto delicata, e riguarda le aziende che si rivolgono a questi terzisti per fare i lavori, perché il problema sta anche là, no, evidentemente. Non c'è dubbio, guardi, mi faccia dire una cosa, il sistema Prato è un sistema fatto di persone per bene, di gente che ha lavorato tanto, ma tanto tanto, e che ha dato a questo paese ricchezza e che è comunque la prima provincia per export nel tessile d'Italia, anche adesso, nonostante tutti i problemi, perché fa un grande lavoro di eccezionale qualità sotto alcuni punti di vista, gli altri artigiani, i nostri imprenditori. Poi è ovvio, c'è un pezzo di delinquenza, non so come altro definirla, di coloro che cercano di inserirsi in questa parte più debole e senza controlli, che è quella appunto del terzismo cinese senza regole, per abbassare i costi e per fare lucrare appunto su questa situazione. Noi per quello che possiamo colpiamo, vediamo però che anche le importanti grif si stanno rendendo conto, si rendano conto che questo tipo di ragionamento è un ragionamento errato, e quindi devo dire c'è una sensibilità vera per quanto riguarda soprattutto la nostra eccellenza, e si rivolgono, per come la so io, per il ragionamento che mi viene fatto, molto spesso invece ad aziende certificate, regolari, a posto. Poi c'è ovviamente una sacca, io non le so dire esattamente da chi viene la commessa di lavoro, neanche mi interessa fino a un certo punto, perché in questo momento quello che mi interessa è ricreare la legalità in un cornice di rispetto delle norme dentro il sistema produttivo complessivo. Grazie Matteo Bifoni, sindaco di Prato. Allora, qualcuno ci scrive, probabilmente qualche cittadino di Prato, ci dice, per come la vedo io la situazione è tale e quale. Guardate, tanto sulla vicenda di Prato ci torneremo, avremo delle puntate un po' più fredde di Effetto Giorno nel periodo natalizio, e su questa vicenda abbiamo intenzione di tornarci. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, che ci parla oggi del ritorno di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi si è fatto sentire dopo alcuni mesi di silenzio imposto dai tribunali dal suo affidamento ai servizi sociali. Il vecchio leader è tornato in campo e ha scelto la semantica della piazza. Sabato 29 novembre si è visto in piazza San Fedele a Milano per il primo appuntamento del No Tax Day. Ha detto che siamo già in campagna elettorale, che non si sa se le elezioni si terranno in primavera con il consultellum o dopo con l'italicum, che siamo in una democrazia che non è totale. Ha attaccato quello che definisce il governo dei maghi, quello dei record, delle promesse e di più tasse per gli italiani. Ha annunciato che intende avviare anche una selezione per i nuovi volti azzurri da mandare in video. In sostanza ha, come si dice, fatto capire chi ancora comanda nel centrodestra, avvisando Matteo Salvini che le guerre si vincono con le lance dei giovani e l'esperienza dei vecchi. Ma qual è il vero obiettivo di Berlusconi? Lui sa che l'ora del ricambio al Quirinale si avvicina e con ogni probabilità Giorgio Napolitano lascerà il suo ruolo di capo dello Stato ad un'altra figura ancora tutta da ricercare. E sa anche che il tempo dell'affidamento ai servizi sociali sta per scadere e a breve potrebbe tornare libero di muoversi politicamente come un tempo. Non mette in discussione il patto del Nazareno, ma tenta di ricompattare Forza Italia, in questi mesi offuscata dalla Lega. Nell'ultimo sondaggio di Pagnoncelli cala la fiducia di Renzi, sale quella per Salvini e gli elettori di Forza Italia continuano a sostenere in massa Berlusconi, il cui gradimento risulta ben al di sopra di quello di Alfano, Vendola e Grillo, la cui leadership non è messa in discussione da nessun Raffaele Fitto o altro oppositore. Traffico. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. A